Quel pomeriggio di qualche anno fa ero in casa e stavo preparando l'omelia per la domenica successiva, quando è suonato il citofono. Chi è? Mi chiamo Pietro, posso parlarle un attimo per favore? È incredibile come la voce possa trasmettere immagini e sensazioni. In quel momento ho intuito, mi è sembrato che Pietro fosse un povero che aveva bisogno di aiuto. E così sono sceso e Pietro mi ha raccontato la sua storia, così simile a tante altre storie che avevo già sentito, ma anche così diversa. E alla fine mi ha fatto una richiesta veramente insolita. Mi ha detto così: "Ascolta, io ricevo una piccola pensione a fine mese, però adesso manca ancora qualche giorno e sono rimasto senza soldi. Mi impresteresti per favore qualcosa? Non appena riscuoto la pensione, il 2 del mese te li riporto subito." Non era la prima volta che ascoltavo richieste del genere, ma in quel momento mi è venuta in mente la frase di Gesù che dice così: "Se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto." E così gli ho dato quello che mi aveva chiesto, però ferma tutto. Lungi da voi il pensare che io sia un santo, tutt'altro, sinceramente non faccio sempre così. Fatto sta che quella volta ho fatto così. Vi devo dire che il mio stupore è stato grande quando il 2 del mese successivo, puntuale come un orologio, Pietro è tornato per ridarmi quello che mi aveva promesso. Ed è tornato poi altre volte, sempre verso la fine del mese per chiedermi un aiuto, per poi ritornare sempre il 2 del mese successivo, sempre per rispettare la sua promessa. Ma la cosa che mi ha toccato di più il cuore è successa dal secondo mese in poi. Oltre a ringraziarmi sempre con grandissima cortesia, Pietro, ha sentito il desiderio di darmi anche qualcosa in più, di farmi un regalo. Ogni volta che veniva a trovarmi, tirava fuori dalla sua giacca il suo blocchetto consumato e spiegazzato, sul quale di tanto in tanto annotava qualche frase presa dalla settimana enigmistica e mi diceva così: "Tu ogni domenica devi predicare, devi parlare alle persone." E così ho pensato che magari ti potrebbe far comodo qualche frase o qualche citazione da utilizzare nelle tue omelie. Ecco quello che Pietro mi ha insegnato: nessuno è così ricco da non aver bisogno di qualcosa e nessuno è così povero da non poter donare qualcosa. Ci sono persone povere come Pietro che sanno donare tanto e ci sono persone ricche, magari come me, che non sempre sono pronti a condividere quello che hanno, ma che comunque sono sempre bisognose di amicizia e di amore. Pietro mi ha insegnato che per comunicare il sorriso di Dio basta un piccolo blocchetto spiegazzato tenuto dentro la tasca di una giacca sgualcita e fuori moda, a patto che dietro a quella tasca ci sia un cuore semplice, sempre pronto a donare quanto a ricevere. Il mio augurio per questo nuovo anno è molto semplice: che anche tu possa avere un cuore sempre pronto sia a ricevere sia a donare. Condividi questo video con i tuoi amici, lascia un mi piace e iscriviti al canale attivando la campanella. E buon anno!